con me questa stanza nuova tra pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando tu sei vicino. Se più niente più niente.